1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ed eccoci allora, quando sono le 7 e 21 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Anche oggi parleremo poi con i nostri ospiti di politica alle 8:15. Avremo con noi Massimo Fini come commentatore, avremo con noi il consigliere comunale a Torino Bertola, che del Movimento 5 Stelle, che ieri è stato accusato di essere di aver detto delle frasi quando c'è stato l'attentato di Preiti. È un po' da equivocare quando ha detto molti, il problema è che molti italiani pensano peccato non abbia fatto secco un ministro. Insomma, il tema è quello politico della fiducia al governo Letta, quello che farà il governo Letta, ma anche quello che è successo durante il giuramento con l'attentato di Preiti. Di che dire, poi parleremo anche con voi, ovviamente i vostri pareri ai nostri microfoni. Vi ricordo che anche domani, che è il 1° maggio, noi saremo regolarmente in onda, quindi smettetela di stare nelle brande ed ascoltateci, almeno accendete la radio, oppure state a letto ma accendete la radio lo stesso. Intanto la lettura dei giornali. È martedì 30 aprile, i titoli, il Sole 24 Ore, IMU congelata, meno tasse sul lavoro, è uno degli annunci da parte del programma di Enrico Letta che ieri ha conquistato la fiducia alla Camera. Per il Corriere della Sera, Letta ferma l'IMU e i soldi ai partiti. Repubblica, Letta stop a IMU e aumenti IVA. Per il Fatto Quotidiano, Letta stop alla rata IMU, ma dove trova 10 miliardi? La Stampa, Letta, a giugno non si paga l'IMU. Tra l'altro, io voglio segnalarlo, La Stampa da oggi esce con un fiocco giallo sulla testata, perché poi ne parleremo più avanti al termine della rassegna stampa, perché da 20 giorni, da 3 settimane è irreperibile l'inviato della Stampa, Domenico Quirico, era entrato in Siria, e La Stampa da ieri ha reso nota la notizia, d'accordo con i familiari, con la Farnesina, dopo 3 settimane nelle quali si è provato a cercare Domenico Quirico, che però non dà traccia di sé, e quindi La Stampa da oggi esce con questo fiocco giallo sulla testata, come a dire, come dice il direttore Calabresi, stiamo attendendo una persona cara che possa dar notizie di sé dalla Siria. Il Messaggero, Letta stop all'IMU di giugno. Il Giornale, via l'IMU, fatto. Il Secolo XIX, Letta ottiene la fiducia, a giugno niente IMU. Per Libero è la favoletta, il governo incassa la fiducia. L'Unità, Letta, il lavoro è la priorità, mentre Avvenire, il lavoro al primo posto. E il Manifesto ci copia un po', no, non è che copia noi, però io ieri l'ho detto, moriremo democristiani. Il titolo del Manifesto di oggi è proprio questo, rimoriremo democristiani, sul Manifesto in prima pagina. Però prima, mani sul volante se siete in macchina o sui manubri delle moto o tazzine del caffè bollenti da appoggiare così come i cappuccini, o meglio si potrebbe dire mani sul timone, perché il Corriere della Sera ha scovato lo yacht da 2,5 milioni di Bossi Junior, vale a dire non di Renzo Bossi il trota, questo è l'altro, Riccardo Bossi, figlio primogenito. Sapete che c'era il mistero di questo yacht da 2,5 milioni comprato con i soldi, secondo l'accusa della procura, del finanziamento dell'ex tesoriere Belsito. Eccolo qui in Tunisia, lo yacht del figlio di Bossi, viene sempre con ragazze diverse. Giuseppe Guastella va a Porta El Kantawi in Tunisia, dove c'è lo yacht con tanto di foto del valore di 2,5 milioni di euro che Riccardo Bossi, primogenito della Lega, del fondatore della Lega Umberto, per il Jeep di Milano avrebbe acquistato avvalendosi di un prestanome grazie a un'ulteriore appropriazione indebita di Belsito. Esiste davvero, il Corriere della Sera lo ha trovato in Tunisia, siamo non lontani da Hammamet. la città dove è sepolto Bettino Craxi, che paese straordinario, ricorsi e ricorsi storici, lunghezza 21,101 metri, due motori da 1550 cavalli, 45,58 tonnellate di stazza, tre cabine lussuose, tre bagni, sei persone più due membri dell'equipaggio, scafo blu notte bianco, ponti in tech, due potenti moto d'acqua nella stiva. Si chiama Stella, la barca più ammirata a Porta El Kantawi. Per la verità, dicono i pescatori locali del porto che appena la si indica, loro la genericamente dicono: beh, è lo yacht della mafia italiana, ma così loro identificano gente misteriosa e poco raccomandabile. Vabbè, il Corriere fa delle indagini, chiede, ha attraccato qui il 16 marzo 2012, raccoglie qualche testimonianza, fa vedere la foto di Riccardo Bossi e tutti dicono: ma sì, è lui, è certamente lui al 1000% il proprietario, ha un'aquila sulla schiena tatuata, afferma con decisione il primo testimone. Infatti Bossi Junior ha tatuata una vistosa aquila sulla schiena. Ed ancora altri testimoni: viene sempre con ragazze diverse, belle e giovani, sui 20 anni, va in giro mettendo in mostra il fisico e tratta tutti in modo brusco, lui comanda come fosse il padrone, mentre l'altro, l'utilizzatore, sembra obbedire, qualche volta prende la moto d'acqua e se ne va in giro a tutta velocità. Poi l'uomo aggiunge questa testimonianza: bisogna stare attenti, io sono un uomo timorato di Dio e onesto, non nascondo mai la verità. Vabbè, insomma, almeno tre persone confermano le presenze di Riccardo Bossi a bordo. Eccolo qui lo yacht approdato a marzo del 2012, mentre in Italia infuriava lo scandalo sui fondi della Lega finiti nelle sedi di Cipro e delle banche in Tanzania, è approdato qui questo yacht Stella in Tunisia, scovato dal Corriere della Sera. Una sentenza invece, prima della pubblicità, che viene riportata dal Fatto Quotidiano, pagina 10, sentenza del Tribunale di Cremona: chi evade il fisco è socialmente pericoloso. Davide Milosa racconta di un imprenditore che aveva barche di lusso, case in Sardegna, Ferrari, 50.000 euro di rate mensili per vari leasing, una mega villa con tanto di laghetto per i cigni. Il signor Luigi S. a Spino d'Adda aveva un tenore di vita che finisce nelle maglie della magistratura. Si trova un risico di società affidate a prestanomi, cooperative nel settore della macellazione utilizzate con uno scopo preciso, vale a dire emettere fatture false per prestazioni inesistenti, un conto che supera 600 milioni di euro per un'evasione totale di 40 milioni. E allora viene condannato, e il cuore del documento di condanna, scrive il Fatto, sta in poche parole: chi evade il fisco è socialmente pericoloso, parole che promettono una svolta in fatto di lotta ai reati tributari, alle quali fa eco il Tribunale di Chieti, che in anticipo di qualche mese fa su Cremona ha messo una identica sentenza a carica di un altro evasore, 3 anni di sorveglianza speciale, perché il proposto è dedito alla commissione di reati preordinati all'evasione fiscale e vive con i proventi di tale attività delittuosa. Insomma, dai tribunali di provincia, fa sapere il Fatto Quotidiano, parte la rivoluzione per combattere gli evasori fiscali. Questa sentenza del Tribunale di Cremona non è la prima, dispone la sorveglianza per un imprenditore evasore, disposta la sorveglianza perché chi evade il fisco è socialmente pericoloso e dunque va sorvegliato. L'evasore dovrà fissare la propria dimora, dovrà comunicarla alla polizia, dovrà procedere alla ricerca di un lavoro entro il termine di 3 mesi, vivere onestamente, rispettare le leggi senza dare adito a sospetti. Insomma, una vera e propria, oltre che condanna, una vera e propria sorveglianza per la pericolosità sociale di questa persona che ha evaso. Eccoci qui, è il momento della pubblicità del meteo. Tra qualche minuto allora ci tuffiamo in questa lettura del discorso di Enrico Letta, premier che ha conquistato la fiducia, ha incassato la fiducia alla Camera, oggi la incasserà al Senato, ma intanto lui è già andato in un tour europeo, incontrerà anche Angela Merkel tra gli altri, e ha promesso tante cose, tantissime cose, via l'IMU, via il finanziamento ai partiti, via le province, scusate il sorriso, meno tasse sul lavoro, lavoro per i giovani, riforme, la riforma elettorale, imprescindibile, sicuramente si farà, tra poco partiremo con il nostro conteggio delle settimane decisive, tutto questo ha promesso, ce la farà? E soprattutto quanto costerà? Tra poco. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui, le 7:35 minuti, ben ritrovati. Allora, la fiducia è arrivata alla Camera, oggi arriverà sicuramente anche al Senato. Ieri alla Camera i numeri sono stati questi: 453 sì, 153 no e 17 astenuti per la prima fiducia al governo Enrico Letta. Dunque ormai il motore è quasi acceso. Questa settimana c'è il ponte, il 1° maggio, quindi glielo sconto, ma dalla prossima settimana inizia il conteggio ufficiale, anche sul mio profilo Twitter Alino Milan, delle settimane decisive per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, visto che sono due delle cose che ha promesso, ma ne ha promesse tante nel programma di governo, tanto che Alfano, come racconta il Corriere della Sera a pagina 3, ha detto, e lo abbiamo sentito anche in GR24, ho condiviso il discorso di Enrico Letta dalla prima all'ultima parola, e musica per le nostre orecchie. E certo, per chi non digerisce moltissimo questo governo delle larghe intese, già sentire questo forse dà un po' fastidio politicamente parlando. In ogni caso, da cosa è partito Letta? Beh, una delle cose più attese, delle promesse più attese, era quella legata all'IMU. E allora sull'IMU, IMU sospesa. Trovate tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore con Marco Rogari. Fisco, a partire dal congelamento dell'IMU sulla prima abitazione, lavoro, imprese, queste le tre coordinate che corrispondono ad altrettanti obiettivi di riforma e rilancio per ritrovare la crescita perduta, su cui snoda il programma economico il neo premier Enrico Letta, con tanto di misure da adottare attraverso una strategia in più tappe, a cominciare da quelle obbligate come il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, la proroga per i precari della pubblica amministrazione, la sospensione del pagamento della rata di giugno dell'IMU sulla prima casa, in attesa di una riforma complessiva, il tutto senza dimenticare il previsto aumento dell'IVA a luglio, su cui bisogna lavorare per giungere a una rinuncia di l'inasprimento, l'allentamento del patto di stabilità interno per i comuni, dunque lavoro e crescita. E su questo bisognerebbe aggiungere, ha detto, cancelliamo il finanziamento ai partiti o questa legge, garantiamo il reddito minimo a chi è senza lavoro, ma già solo questo vale 10 miliardi il reddito minimo. E poi c'è appunto la cancellazione dell'IMU, 8 miliardi, 4 di mancato incasso di quest'anno e 4 di abolizione dell'anno scorso e 4 di mancato incasso di quest'anno. Forse appunto si scongiura l'aumento dell'IVA, il meno tasse sul lavoro, insomma tutti questi soldi poi dove si trovano? Tutta questa copertura dove si trova? Anche il lavoro deve essere una priorità, così come racconta Giorgio Pogliotti, ha detto Enrico Letta nel suo discorso del pre-fiducia, a pagina 8 del Sole 24 Ore, racconta Pogliotti, semplificare l'apprendistato, allentare la stretta sui contratti a termine, rifinanziare con un'urgenza la cassa in deroga e guardare l'Europa per adottare un welfare universalistico con forme di reddito minimo per le famiglie bisognose. Ecco, questi sono i punti essenziali. E poi gli esodati, risolvere questo problema strutturale, altrimenti è un patto che si rompe, ha affermato Enrico Letta senza mezzi termini, dopo aver definito il lavoro la priorità del governo, perché solo con il lavoro si può uscire dall'impoverimento. Insomma, tutto un programma che io, quando ho sentito, ho detto wow, spettacolare, se ne riesce a realizzare il 50% torna al Regno d'Italia, re Enrico Letta. Il problema è dove si trovano per esempio i soldi per la copertura, e qua già ballano le cifre. Ogni giornale fa un po' i suoi calcoli, mentre il giornale già gongola, niente IMU a giugno, missione compiuta. Libero invece la vede così, per esempio, favoletta, infatti il titolo di prima pagina è La favoletta. Maurizio Belpietro proprio si chiede questa domanda: dove trova i soldi? Promette aiuti, reddito a tutti, meno tasse, già, ma i soldi dove sono? Servono almeno 20 miliardi, questo secondo Libero. Secondo altri calcoli, per esempio secondo la Stampa, l'agenda Letta, Alessandro Barbera, costa almeno 12 miliardi, gli interventi su tasse e lavoro di cui ha parlato ieri il Premier potrebbero far salire il totale a 20 miliardi. Due le strade per il nuovo esecutivo sono tagliare la spesa o rivedere gli impegni presi con l'Europa. Ecco, tagliare la spesa sarebbe strauspicabile, andrebbero 60 milioni di italiani in piazza a dire di sì. credo. Rivedere, beh, forse 60 milioni proprio non tutti, c'è chi vuole, c'è il partito della spesa pubblica sempre. Rivedere gli impegni presi con l'Europa, e beh, è per questo che Enrico Letta già oggi inizia un tour europeo, vedrà anche Angela Merkel, e quindi questo ovviamente è un qualcosa che si deve negoziare e rinegoziare. Per l'unità sono misure da 10 miliardi senza tradire il rigore, così Bianca Di Giovanni a pagina 4. All'Unione Europea certo si chiederà di escludere dal deficit gli investimenti. Per quel che riguarda il fisco, il nuovo welfare, l'industria e il lavoro, 10 miliardi servono subito, questo almeno per l'unità. Certo, una cosa propositiva e una cosa positiva che ha proposto Enrico Letta, e a giudicare dalle facce dei ministri era davvero, come ha detto lui alla Camera, un qualcosa di imprevisto, di non annunciato, che veniva annunciato lì e che neppure i ministri sapevano, è stata la decisione di annunciare che i ministri perderanno la doppia indennità, cioè quelli che sono ministri anche parlamentari non avranno il cumulo dell'indennità come succedeva prima, e quindi sforbiciata allo stipendio dei ministri, stop alla doppia indennità. Anche sul Sole 24 Ore a pagina 10 Nicola Barone e Eugenio Bruno raccontano questa cosa. C'è anche la reazione già di un ministro, vale a dire Nunzia De Girolamo, ministro dell'agricoltura, che intervistata dal Secolo XIX a pagina 4 dice: è assolutamente giusta questa cosa, non lo sapevo, è stata una sorpresa, ma sono completamente d'accordo, la politica deve dare il buon esempio, sono contenta di poter essere espressione di questo governo che taglia lo stipendio ai suoi ministri. Riguardo alle polemiche, perché qualcuno ha detto: ma come, che competenza ha la deputata beneventana, classe 1975, nell'agricoltura? Nessun malumore, tutti sono rimasti contenti, anche nel Popolo della Libertà si sono congratulati in tanti. Comunque parlerò con il territorio, per troppe volte il territorio è stato abbandonato dalla politica e dai ministri. Comunque dice: assolutamente va tagliato lo stipendio. Per quel che riguarda invece le riforme, questo è un altro capitolo. Beh, cari italiani, io per carità di patria, quando ho risentito ieri dire aboliremo le province, vabbè, ma cosa dobbiamo aggiungere? Siamo qui in attesa, siamo qui tutti speranzosi, come racconta Sergio Rizzo a pagina 10 del Corriere della Sera. Italia, la politica, dalle province ai rimborsi, la casta da ridimensionare con il rischio di imboscate. Racconta Rizzo: sappiamo come sono andate finora le cose, non resta che rifugiarsi nella speranza. Non c'è governo che non abbia promesso l'abolizione delle province, sempre inutilmente. Rispetto a quanti l'hanno preceduto, tuttavia Letta ha un paio di vantaggi: un Parlamento largamente rinnovato con una grossa sponda, il Movimento 5 Stelle favorevole, senza se, senza mai, taglia i costi della politica, e la strada già fatta. E poi la strada già fatta è il secondo punto. C'è il decreto Salva Italia, quello che poi era stato affossato alla fine, del ministro Patroni Griffi, che voleva tagliare le province. Certo, racconta Sergio Rizzo, c'è ancora un ricorso alla Corte Costituzionale di alcune province contro il decreto di Patroni Griffi, che è ancora in vigore. La decisione arriverà tra di giugno e luglio della Corte Costituzionale, e prima di allora sarà difficile mettere mano alla questione. Più semplice la riforma del finanziamento ai partiti, più semplice sulla carta, ovvio, racconta Sergio Rizzo. Chi terrà la presidenza di questa convenzione per le riforme che dovrà fare, oltre al taglio delle province, oltre all'abolizione del finanziamento ai partiti, questo secondo gli annunci, oltre alla riforma elettorale imprescindibile, quando ieri Enrico Letta l'ha detto dobbiamo assolutamente fare questa riforma elettorale, si è elevato un applauso di giubilo dal Parlamento. Ma come, erano sempre gli stessi che Napolitano aveva invitato a fare una riforma elettorale in maniera imprescindibile, col contesto che io facevo è la settimana decisiva per la riforma, e gli stessi che non l'hanno fatta applaudivano dicendo: sì, bravo, bisogna farla. Vabbè, partiremo la settimana prossima e cercheremo di capire se verrà fatta. Chi sarà presidente di questa convenzione? Beh, Silvio Berlusconi si è candidato in maniera abbastanza esplicita. Il Cavaliere tiene a bada il partito e si candida a capo della convenzione. Paola Di Caro sul Corriere della Sera, pagina 12, sarebbe bello se il presidente del PDL fosse il capo della convenzione, ha confessato ai suoi deputati. Certo, qualche maligno, racconta il Corriere, fa capire che per il cavaliere sarebbe un doppio salvacondotto morale, perché ne farebbe il Calamandrei della Terza Repubblica, ma anche giudiziario, perché potrebbe essere spesso usato e volentieri il legittimo impedimento, una bella seduta della convenzione per non presentarsi in tribunale. Sta di fatto che il cavaliere gongola, questo è un dato che anche Libero sottolinea, tanto che tra i deputati del Popolo della Libertà circolava ieri questa battuta: il discorso di Enrico Letta alle Camere sembra scritto da zio Gianni. C'è invece chi non gongola, qualche malumore nel PD. Civati è uscito e non ha votato insieme ad altri pochi per la verità la fiducia. Il Movimento 5 Stelle invece tuona e accusa dopo il traffico. E allora nel Movimento 5 Stelle c'è molta opposizione. Roberta Lombardi, capogruppo dalla Camera, fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistata da Alessandro Trocino. Dice: è come se Letta fosse arrivato da Marte ascoltando il suo discorso. Ha portato l'impegno che molti italiani avrebbero voluto sentire, solo che noi in Italia ci viviamo almeno da 40 anni. E negli ultimi 20 lui o la sua famiglia sono stati ininterrottamente al governo. E allora perché non hanno fatto nulla? E poi prima eravamo tacciati di essere sognatori, ora invece va la grande, anche il PDL ha parlato di ha preso sull'abolizione dell'IMU, e poi la parte sui risparmi, la moralizzazione, l'anticorruzione, il conflitto di interessi, tutte cose che si riscoprono solo ora. Sarei felice se riuscissero a farle, tornerei a fare la mamma e l'impiegata, dice Roberta Lombardi, felici di essere smentiti, ma siamo molto scettici, anche perché Berlusconi è anche peggio di Bersani, forse questo non lo dovevo dire, ma l'ho detto. E poi sulla frase di Letta, scongelatevi, risponde Roberta Lombardi: se vuole un abbraccio preventivo a prioristico, preferisco rimanere uno stoccafisso. E comunque apre pronti al confronto, ma certo, insomma, molta delusione del Movimento 5 Stelle. Intanto il clima di tensione non si abbassa, ovviamente, perché è ancora forte l'eco dell'attentato di Preiti, che ha sparato a due carabinieri, uno dei quali ferito in modo molto molto grave. E Alfano ieri ha confermato, ministro dell'interno, il gesto isolato. Sta di fatto che è stata rafforzata la scorta a tutti i ministri, come racconta il Corriere della Sera e anche La Stampa con Guido Ruotolo a pagina 18. Scorta a tutti i ministri, scorta armata, senza possibilità di deroghe, nonostante qualche ministro abbia detto ma no, non ce n'è bisogno. No, scorta armata, potenziamento della protezione personale per tutti i ministri. Da oggi l'allarme massimo, fa sapere Guido Ruotolo. Che dire poi della vicenda? C'è tutto un contorno giornalistico abbastanza pietoso. La pena massima si è toccata con l'intervista, anche se di spalle, fortunatamente, almeno un briciolo di dignità, al bambino di 11 anni, figlio di Luigi Preiti, che è stata fatta da alcuni giornalisti, ma è andata in onda anche, credo, da Sky, poi è stata tolta col direttore Sara Varetto, che ha detto è stato un errore imperdonabile. Ma insomma, c'è anche questo, e infatti commenti: il figlio del mostro sbattuto in TV a 11 anni, un errore senza senso, per esempio per Anna Maria Bernardini De Pace sul Giornale, ma anche Libero: nella corsa allo scoop a tutti i costi intervistano pure un undicenne, Il Messaggero: in TV il figlio dell'attentatore è bufera. È vietato, ci sono dei codici deontologici che vietano l'intervista, anche se autorizzata dalla madre, per la verità, pare. E anche Marina Mastroluca sull'Unità: quell'intervista al figlio che ci fa vergognare. In ogni caso, ma forse si dovrebbe vergognare anche l'onorevole del Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi? Che dite? Sentite cosa dice al Secolo XIX, intervistato da Ilario Lombardo a pagina 7. Avesse colpito i politici, ne avrei capito il senso. Ecco, forse non avete capito voi il senso della frase, ma ve la ripeto: Andrea Cecconi, onorevole Movimento 5 Stelle, se avesse sparato contro un'auto blu avrebbe avuto un senso. Sì, dice proprio così. Cecconi. Scusi, chiede il Secolo, lei è certo di quello che sta dichiarando? Mi spiego. Ammesso che non è giustificato sparare in nessun caso, aver sparato sui carabinieri è assolutamente incomprensibile. Se la fosse presa con qualsiasi altro simbolo del cosiddetto potere, anche se nel torto, il gesto avrebbe assunto significato. Lasciamo stare l'auto blu, ma diciamo che se avesse puntato sul portone di Montecitorio avrebbe avuto un perché. Quello è un simbolo della casta. La violenza è ingiustificabile in tutti i casi, ma c'è una differenza tra sparare a un carabiniere che è vittima di questa società in crisi, che lavora per 1200 euro al mese, e sparare a un politico. Eccola qui. La differenza, c'è una differenza, avete sentito? Per l'onorevole Cecconi c'è una differenza tra sparare a un carabiniere che è vittima della casta e sparare a un simbolo della casta. Deprecabile, ma avrebbe un senso, un significato. Eh sì, il significato del terrorismo, il significato della criminalità, questo è il significato. Comunque, avesse colpito i politici ne avrei capito il senso. Questo dice l'onorevole Andrea Cecconi, deputato 5 Stelle, intervistato dal Secolo XIX da Ilario Lombardo. Che dire... Io voglio tornare su quello che ho fatto come citazione all'inizio della rassegna stampa, vale a dire la prima pagina della Stampa. Tante volte mi chiedono, così tante volte, qualche volta mi chiedono, ma qual è il tuo giornalista preferito? Io quando devo rispondere a questa domanda dico sempre, beh, io non mi perdo mai un reportage di Domenico Quirico della Stampa. Voi immaginate ieri quando ho appreso che da 20 giorni Domenico Quirico è irreperibile in Siria. Immaginate lo stato d'animo, insomma, mi fa davvero dispiacere. Sono vicino a Domenico, alla sua famiglia, nella speranza che possa tornare. Ieri il direttore della Stampa, Mario Calabresi, ha deciso di dare questa notizia. Da 20 giorni era appunto scomparso, è scomparso Domenico Quirico. Per la verità lui solitamente scompariva anche qualche giorno per fare i suoi reportage, sempre in prima linea, sempre magari spegnendo il telefonino, ricomparendo dopo qualche giorno, ma questa volta il silenzio si prolunga da troppo tempo. E allora Mario Calabresi ieri ha reso nota la notizia, la Farnesina per la verità nel silenzio lo sta cercando appunto da 20 giorni. Il nostro inviato Domenico Quirico scomparso in Siria da 20 giorni, racconta Mario Calabresi in prima. E c'è anche il racconto di un altro straordinario reporter di guerra, Mimmo Candito, che racconta in prima pagina della Stampa quel lavoro sul campo del reporter di guerra. Quando te ne vai a raccontare una guerra, l'imprevisto se ne sta acquattato nel fondo del tuo borsone, acquattato che neanche lo vedi, sepolto sotto la massa confusa di una camicia ripiegata ancora fresca, mutande, calze, due farmaci di pronto intervento, un rotolo di carta igienica, il vecchio romanzo che devi sempre finire, più tutti i fili e i cavi del tuo lavoro oggi elettronico. Ma è solo un'ipocrisia che tu non lo veda, perché quell'imprevisto tu non vuoi proprio vederlo e comunque sai di quel fantasma che sotto si nasconde e aspetta. Questo fondo oscuro del borsone tu non lo guardi mai e non è per paura, non certo per incoscienza, è soltanto il pudore di poter mancare un dovere che senti la natura del tuo lavoro, che sai sta nella tua capacità di misurarti con una realtà ambigua, menzognera, senza identità credibile, lungo una ricerca che si spinge fino a una linea d'ombra la cui geometria mai conosci prima, né può conoscerla davvero chi su quel terreno con te non ci sta. Il reporter di guerra è un mestiere che muore, soffocato, umiliato dalla vanagloria delle nuove tecnologie, dall'egemonia riduttiva della televisione. Muore ma non è morto. È come il giornalismo, il vecchio giornalismo che tira le cuoia, però costruendo con mille affanni e mille paure un'identità nuova, fatta sì di velocizzazione cieca, di immediatezza cialtrona, di spettacolarizzazione canaglia, ma anche di nuove forme di produzione dell'informazione che riscoprono le fonti citizen, i blog, i chat, quello sterminato pulviscolo sminuzzato mareale di notizie. Ecco, questo è l'articolo di Mimmo Candito, quel lavoro col taccuino che batte la tecnologia e la speranza davvero che Domenico Quirico, inviato della Stampa, scomparso da 20 giorni in Siria, possa ridare notizie di sé. Mi fermo qui, è tempo di giornale radio.